Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, right about now, about now. Buongiorno, buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, l'unica trasmissione radiofonica che vi porta le voci, i fatti e le opinioni dalla galassia animalista, antispecista e vegan. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. About now, funk soul brother, right about now, funk soul brother, check it out now, funk soul brother, right about now, funk soul brother, check it out now. Oggi dedichiamo la puntata a tre coraggiosi attivisti animalisti e anticorrida che il giorno 7 luglio scorso, nel pieno della festa di San Firmino a Pamplona, hanno fatto irruzione nell'arena per abbracciare il toro che era stato appena ucciso, mostrando così l'opposizione forte che esiste in Spagna contro la violenza e l'ingiustizia della tauromachia. Il toro si chiamava Neve. I tre attivisti sono stati malmenati e naturalmente arrestati. I loro nomi sono Peter Jansen, Joel e Lolita. Per la feria di San Firmino, migliaia di persone accorrono a Pamplona, capitale della Navarra, per le tradizionali corse dei tori, diventate ormai un'attrazione turistica di portata mondiale. Ma nel tempo aumentano anche le manifestazioni anticorrida e ogni anno di più arrivano a Pamplona attivisti da tutta Europa per dare corpo a manifestazioni consistenti e scenografiche contro ogni corrida. Quest'anno i manifestanti hanno protestato nudi, versandosi addosso del sangue finto. Abbiamo dedicato un servizio ai rondoni. Chi ci ascolta più fedelmente ricorderà la storia del rondone che con la sua morte ha reso possibile a un altro rondone tornare a volare. In quella occasione vi abbiamo presentato Liberi di Volare, una clinica che si trova a Trieste e che è in grado di eseguire impianti di penne su rondoni vivi e bisognosi di penne nuove per poter partire verso le loro migrazioni, verso i paesi africani. Sono piccoli miracoli compiuti su minuscoli corpi di queste macchinette da volo che si chiamano rondoni. Sono uccelli incapaci di partire in volo una volta che accidentalmente toccano terra. Torniamo a parlare di rondoni perché a Milano esiste SOS Rondoni, un progetto progetto che si occupa di tutelare questi fragili ma affascinanti animali che vivono accanto a noi nelle nostre città. Sentiamo il servizio della nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino. Andrea Pirovano, presidente di Progetto Natura Onlus. SOS Rondoni è un'iniziativa di Progetto Natura Onlus. Ci proponiamo di tutelare in modo attivo i rondoni, aprendo queste buche pontaie che venivano costruite negli edifici medievali per erigere i ponteggi, che attualmente vengono sistematicamente chiuse dalle amministrazioni comunali o gli enti gestori dei monumenti per limitare la presenza dei piccioni. Facendo così però vengono poi danneggiati anche i rondoni, che all'interno delle buche pontaie nidificano comodamente, no? E si trovano invece le porte chiuse al ritorno dall'Africa. Via via che si procede con le ristrutturazioni dei palazzi, delle facciate, vengono chiuse le fessure, le cavità, le buche pontaie dove nidificano, man mano le città diventano sempre più inospitali per i rondoni. Negli ultimi 30 anni le popolazioni dei rondoni europei sono calate del 25%. E una delle cause, la principale causa, è proprio questa, che via via che le città si riammodernano vengono cancellate queste situazioni dove loro nidificano. Scopo di Progetto Natura e di SOS Rondoni è proprio quello di coinvolgere chi ha la responsabilità di gestire il patrimonio edilizio antico e moderno di Milano, per trovare insieme delle soluzioni partecipate che permettano appunto di eseguire quello che bisogna fare per il patrimonio, per tutelare il patrimonio edilizio, ma con l'attenzione ai rondoni. Apriremo delle buche pontaie in modo emblematico per far vedere che si può fare, promuoveremo l'apposizionamento di cassette nido, no? Per favorire e per compensare degli interventi che magari chiudono delle colonie, e poi coinvolgeremo la cittadinanza in una giornata come oggi e tante altre, e appunto chi si occupa della tutela del patrimonio, per far sì che si condividano delle soluzioni che facciano bene sia ai rondoni e che poi anche a chi deve appunto tutelare il patrimonio edilizio. La città è densa di esseri umani, però guardando meglio è ricca anche di altre specie animali, no? Per cui senz'altro innalzare il livello di sensibilità, no? Verso queste tematiche e questi esseri viventi fa solo bene, insomma. Guido Pinoli, Progetto Natura. I rondoni vengono scambiati da tutti per rondini. In realtà hanno le ali molto lunghe, la codina corta e stretta e anche poco forcuta, e sono generalmente di un colore unico, di un colore nero, nero caffè latte a seconda della specie. Hanno solo un po' di bianco sulla gola. In città nidifica più che altro il rondone e il balestruccio, la rondine nidifica al confine della città, soprattutto in campagna. Pochi si rendono conto di chi sono, dove nidificano, perché è un animale molto discreto. E fa questo grido che ci segna l'arrivo dell'estate, molto bello, quando si muove in gruppo in stormo. Per cui solo dove ci sono delle colonie grosse si possono vedere, o la mattina o la sera, tanti rondoni girare. Stiamo parlando soprattutto di case costruite intorno o prima del 1950 o appena dopo la guerra. Sono delle case con dei tetti che qua e là hanno dei buchi perché si è sollevato un po' una tegola, eccetera, allora magari un rondone riesce a infilarsi lì dentro. Nelle nuove abitazioni non ci sono più cavità adatte per i rondoni, e neanche nei grossi edifici. La maggior parte dei rondoni dell'area milanese nidifica nel municipio 1, quindi nella zona centrale. Prevalentemente tutte le grandi chiese, sto pensando al Castello Sforzesco, che è l'altra grande colonia, a Sant'Eustorgio c'è una buona colonia. Nelle strutture più moderne nidifica San Siro, dove negli spicchi dei popolari, come venivano chiamati una volta, delle gradinate, c'è una fessura tra uno spicchio e l'altro di cemento armato, e i rondoni si infilano lì dentro. E c'è questa grande colonia di rondone maggiore, che è un rondone che normalmente nidifica o al mare o in alta montagna. culinaria che abbiamo lanciato al tosco vegan chef Gabriele Palloni per il suo spazio dedicato alla gastronomia cruelty free è la seguente. Preparaci una ricetta volatile come un rondone e vediamo se Gabriele anche stavolta è riuscito a inventarsi una ricetta a tema. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Uno sfizioso dessert senza glutine, che non ha bisogno di cottura in forno, leggero e delicato come il volo dei rondoni. Il segreto della ricetta di oggi è nascosto nella magia dell'acqua faba, ovvero l'acqua di cottura dei ceci, che riesce a montare a neve ferma, regalando spumosità alla nostra mousse fondente all'acqua faba. Gli ingredienti per 4 persone sono 150 mg di acqua faba, un pizzico di sale, 200 g di cioccolato fondente, della granella di nocciola o pistacchi. Montate l'acqua faba fino a quando risulterà bella soda, come per fare una meringa. La cosa migliore, se ne avete la possibilità, è utilizzare una planetaria a potenza sostenuta, ma con un po' più di pazienza anche una frusta elettrica, più facilmente reperibile in casa, potrà svolgere la sua funzione. Aggiungete un pizzico di sale e fate finire di montare. A parte a bagnomaria, fate sciogliere il cioccolato. A questo punto unite l'acqua faba montata, un cucchiaio per volta, mescolando lentamente dal basso verso l'alto per non far smontare il composto e far incorporare aria. L'aspetto della vostra mousse adesso sembrerà piuttosto liquido, ma non preoccupatevi, nessun errore, state procedendo bene. Dovete solamente dividere il composto in coppette di vetro e lasciarlo riposare in frigorifero almeno per un'ora. Vedrete che la consistenza cambierà e la vostra mousse diventerà soffice e spumosa. Potete servirla guarnendo con della granella di frutta secca o una cialda croccante. Da Caserta, dove potrebbe essere scoppiato per motivi accidentali il rogo che ha ucciso circa 30 cavalli che erano chiusi in una stalla a Sant'Ammaro nel Casertano, a non molta distanza dalla reggia di Carditello. Vogliamo puntare il dito ancora una volta sugli effetti non tanto collaterali ma sostanziali della prigionia degli animali. Il fatto che siano costretti dentro spazi delimitati li rende vittime di calamità naturali di ogni tipo, inondazioni, incendi, terremoti, tutti eventi dai quali potrebbero salvarsi se non fossero chiusi e costretti. Se sempre in Italia, stavolta una bella notizia. Andrea Budu Toniolo, 27 anni, vegano, è un runner da record. Partito da Padova 2 anni fa, ha percorso 4.370 km fino a Capo Nord in Norvegia. È stato soprannominato il Forrest Gump Veneto. La sua incredibile esperienza è durata 84 giorni e il racconto di questa avventura è rimasto impresso in un libro intitolato Il limite che non c'è, dall'Italia a Capo Nord correndo. Racconta le motivazioni di un giovane che dopo 2 gravi incidenti decide di licenziarsi da un lavoro che non lo soddisfa per correre alla ricerca di se stesso e dei propri limiti lungo un tragitto solitario di 4.500 km. Si è trattato di una sfida fisica, mentale e spirituale con cui Andrea invita le persone a non mollare e a coltivare con tenacia i propri progetti. Cercheremo di intervistare questo interessante personaggio decisamente eccentrico, per giunta vegano. Gli chiederemo come ha fatto ad affrontare uno sforzo simile senza le proteine nobili della carne e ci divertiremo a sentire la sua risposta. Adesso in India, dove ci sono delle morti sospette nell'area protetta di Pilibhit, nell'Uttar Pradesh. L'ultima è una donna di 55 anni che è stata trovata sbranata da tigri. Il sospetto è che si sia spinta all'interno di una foresta dove abitano appunto tigri per riscattare l'assicurazione. Una tragedia su cui si sta indagando tra povertà estrema e idolatria. È stato un funzionario dell'ufficio governativo a sorprendersi per la presenza di questi ultimi casi di morte in Uttar Pradesh per attacco delle tigri, tutti a ridosso di questa riserva protetta. Il funzionario ha svolto una ricerca e ha scoperto che le vittime avevano una cosa in comune: erano tutte poverissime ed erano tutte sopra una certa età. Si presume quindi che le ultime tragedie siano collegate al consistente premio assicurativo in rupie, sono 500.000 rupie, pari a 6.700 euro, pagate ai congiunti di chi finisce tra gli artigli di una delle 12 tigri che vivono nelle riserve di Pilibhit, di recente ripopolate per preservare la specie. La compensazione prevista dalla legge è molto elevata per gli standard di popolazioni che vivono con meno di $1 al giorno, ma un'apposita assicurazione governativa paga il premio alle famiglie solo se l'incidente è avvenuto subito fuori e non dentro le riserve, perché all'interno di queste riserve ognuno ci va a proprio rischio e pericolo. Estinzione di massa nella storia dell'umanità, più o meno la conosciamo tutti, almeno per sentito dire, avvenne circa 66 milioni di anni fa e spazzò via i dominatori dell'epoca, i dinosauri, oltre alla maggioranza delle altre specie animali e vegetali. La causa di tutto ciò, a quel che pare, fu l'energia scaturita dall'impatto di un enorme meteorite sulla Terra. Oggi gli scienziati parlano di una sesta estinzione di massa e si domandano se non sia già in corso. I dati sulla condizione degli abitanti del pianeta erano già allarmanti e nei giorni scorsi la rivista dell'Accademia Americana delle Scienze ne ha aggiunti altri. La nuova ricerca è stata realizzata dai biologi dell'Università di Stanford e dell'Università Nazionale Autonoma del Messico ed è stata condotta su ben 27.600 specie di uccelli, anfibi, mammiferi e rettili. I dati raccolti dimostrano che oltre il 30% delle specie di vertebrati si sta riducendo per numero di individui ed espansione geografica. I mammiferi, in particolare, hanno perso almeno il 30% della loro estensione geografica, mentre più del 44% delle specie ha subito un grave declino di popolazione. Questo è il preludio, dicono i ricercatori, alla scomparsa di molte più specie e al declino di sistemi naturali che hanno reso possibile la nostra civiltà. Tutto ciò, spiegano ancora, è dovuto principalmente all'azione distruttiva della specie umana, che ha modificato gli habitat, sterminato innumerevoli specie, inquinato così tanto da indurre cambiamenti climatici nella biosfera. Se, come temono gli scienziati, la sesta estinzione di massa è davvero in corso, sarà ben difficile per la specie umana interromperne il cammino e quindi il suo stesso destino sarà segnato. Secondo gli scienziati, se non ci sarà un cambiamento radicale e duraturo di comportamenti collettivi, e sempre che siamo ancora in tempo, la vita della Terra proseguirà senza Homo sapiens e senza la maggior parte delle specie oggi esistenti. E a quel punto non sarà colpa di un meteorite. L'estate, ma sono libri sulla questione animale, che è quella questione al centro delle nostre trasmissioni. Oggi vi proponiamo la seconda recensione a cura degli editori indipendenti Troglodita Tribe. Il libro che ci riassumeranno oggi si intitola, neanche a farla apposta, Uomini e animali, e noi speriamo che questo ciclo di recensioni vi incuriosisca. Uomini e animali di Enzo Bianchi, Pietro Chiaranz, Anne Letizia Michon. Edizioni Kikajon, Comunità di Bose, pagine 160, 16 euro. Saggio piuttosto complesso, in cui gli autori affrontano la scottante questione della tradizione ebraico-cristiana, giudicata dalla società moderna come antropocentrica, una fede che assegna all'umano il diritto di disporre a suo piacimento di tutti gli animali. Sollecitati da questa critica, compiono un'operazione di rilettura del messaggio biblico e, analizzando i racconti della creazione dell'Apocalisse, passando attraverso la sconfinata letteratura di testi antichi e salmi, arrivano a sostenere che l'invito alla lode di tutti gli esseri del creato è invece attento e continuo. Anche molti verbi come soggiogare e dominare rivolti agli animali sono state, secondo gli autori, mal tradotti e soprattutto mal interpretati. Molta attenzione è anche rivolta alla vita e alle riflessioni dei santi ed asceti. Vengono riportati moltissimi brani ed episodi, anche di contemporanei, da cui si evince che la piena armonia con gli animali è del tutto indispensabile per riuscire a differenziare il semplice esistere dall'esistere nel bene. Perché solo il peccato originale ha dato origine alla violenza umana nei confronti degli animali, che nulla ha a che vedere con il disegno divino. Un disegno che, al contrario, è legato al concetto di amore cosmico, caratterizzato da una comunità di individui che vengono definite co-creature, sia umane che animali, ma caratterizzato anche da un reciproco rapporto di conoscenza e di rispetto, di coabitazione e di attenzione, un amore cosmico dunque che non viene certo riservato solo agli umani, ma anche a tutti gli animali. Gli autori, ben sapendo che la Chiesa non si è ancora pronunciata ufficialmente sull'argomento, ci offrono delle interessanti ed approfondite opinioni teologiche che mettono in luce una diversa inquadratura. Siamo in chiusura. Hanno collaborato alla realizzazione di questa puntata Andrea Pirovano, Guido Pinoli, Roberta Marino, Giuseppe Coco, Gabriele Palloni, Lorenzo Guadagnucci, Francesca De Matteis, i Troglodita Tribe, Gianni Ferrarotti e Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la prossima puntata di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.